Palla Spicchi con Carlo Genta. Buongiorno e buon anno a tutti. Venerdì 30 dicembre non può essere un giorno normale, quindi non posso avere qui vicino un ospite normale. Infatti ho Mario Boni. Ciao Mario. Ciao Carlo, ciao a tutti. Anche perché ormai Boni e Cattivi dell'ultimo dell'anno non ve lo leva nessuno. Ciao Costian Peterson. Ciao ragazzi, già Merry Christmas, but Happy New Year, ok? Happy New Year, coach. Senti, è inutile negare che il 2011 verrà ricordato negli annali della pallacanestro come l'anno in cui Dan Peterson è tornato. Il terremoto Dan Peterson, perché si è aperto così quest'anno. Però è stato bello, di' la verità. Ah, beh, ripeto per tutti, è stata la più bella esperienza per me della mia carriera, di essere richiesto di tornare, di allenare, cioè dello stimolo della partita, della squadra, di tutto quello che Mario conosce benissimo, e quello che va proprio dentro tutto, cioè rivivere quelle cose lì è stato come un'iniezione di adrenalina massiccio, ok? Quindi l'ho apprezzato molto. L'unica cosa, chiaro, che dico sempre, non come scusa ma come realtà, l'infortunio a Maciude 7 giorni prima dei playoff mi ha tolto la soddisfazione veramente di andare in finale e misurarsi contro Siena. Però io dico che la squadra, la soddisfazione mia, che è stata come per me la banda Bassotti, ok? Cioè proprio hanno dato tutto quello che avevano, lavoravano come non mai in allenamento, nelle partite sputavano sangue, non potevo chiedere di più. Comunque ricordo quando è stato annunciato il nome di Dan Peterson quest'anno, è stata una botta di adrenalina a livello mediatico, mai così tanta attenzione da parte di tutti, in tutti i telegiornali del giorno, e contatti con tutti volevano parlare con Dan Peterson. È stato un grande ritorno. Senti Mario, ma tu adesso, insomma, tu non sei mai andato, quindi non hai mai avuto occasione di tornare, perché non hai ancora smesso, sei ancora parte di questo gioco. Magari anche con un altro ruolo, esatto. Fossi direttore sportivo, cosa che magari sarai, di una squadra di Serie A, chiameresti Dan Peterson? Io quando ho letto che c'era la possibilità che Dan Peterson tornasse ad allenare Milano, e quando è stato annunciato, ho avuto proprio un gesto, un momento di brividi, perché la storia è importante, ci fa ricordare ciò che è stato Dan Peterson, ma anche quello che significa per il basket e la sua conoscenza. Quindi quando è ritornato e ha fatto quello che ha fatto a Milano, pur con infortuni e problematiche, è stato per me un momento significativo alla pallacanestro. Coach, adesso ti faccio una domanda seria. Ti richiamassero, gennaio è vicino, ti hanno richiamato a gennaio, ti ricevessi una telefonata di una squadra di Serie A, naturalmente, che ti interessa, diresti di sì o di no? Dovrei pensare un attimo, perché l'anno scorso ho messo in difficoltà tante persone tornando, okay? Quindi a partire da Sport Italia, che okay? Hanno dovuto fare i salti mortali, eccetera. Però per la situazione giusta ovviamente sentirei, ok? Sono sempre professionista, bisogna essere sempre professionista, occhi aperti, orecchie aperte per sentire le cose, però non sarebbe una cosa facile, altro che storia. Però non diresti di no a priori, insomma? No. Ascolterei. Adesso sono molto contento per quello che sto facendo, perché faccio Sport Italia, faccio consulente, faccio team building, faccio tutte quelle cose lì. Parli con noi tutti i venerdì? Con voi ogni venerdì. Quindi io cerco di trovare le cose di grande soddisfazione e di grande divertimento, gioia, cioè le cose gioiose da fare, e mi trovo bene quando sto facendo una cosa, quindi adesso sto bene facendo quello che faccio, perché sono sempre dentro la pallacanestro, ma anche fuori dal basket. Mi chiedessero di fare un'altra cosa, io ascolto tutto, questo è poco. Ma però coach, fai troppe cose, non hai tempo. Troppe cose. Mario, tu fai una battuta, ma non è proprio così, hai capito? Cioè, io quando la gente mi chiede una cosa, mandami un'email, dico, che quando vado a casa e apro il computer, voglio vedere il mio calendario come sono messo, perché ormai, cioè, infatti io probabilmente rifiuto 3 o 4 cose per ognuno che riesco, solamente per far incastrare tutte le date con il calendario, eccetera. Quindi è proprio così. Quindi, ma era già così negli anni '80, coach. Era già così negli anni '80, non è così da adesso. Insomma. Negli anni '80, cioè la gente non sa che io, quando allenavo negli anni '80, facevo ogni mattina 4-5 ore di registrazione per la televisione, facevo la pubblicità per la Lipton. Una volta, proprio durante la stagione, sono andato in America. Ho saltato un giorno di allenamento, un mercoledì di dicembre dell'ultimo anno, fra l'anno del Grand Slam, e quindi giovedì era lunedì, martedì ho dato riposo, mercoledì Casolini ha fatto allenamento e giovedì c'ero io, perché abbiamo fatto tutto quello della amaca lì fuori, la prima pubblicità del tè ghiacciato, quindi lì sono andato a Miami per farlo col permesso della società, quindi ero veramente indaffarato su tutti i fronti, poi giornalismo e altre cose, quindi ovviamente ero più giovane, adesso non potrei più reggere un ritmo così a dir poco. Ma guarda, se avessi io l'energia del coach, caro Mario Boni, magari alla sua età ha solo 55 anni il coach, quindi 55 anni. Ancora tanti anni davanti, quindi... Mario, sì. Grazie per aver sottratto 20 anni. Sentite ragazzi, lo chiedo prima a Cacio, poi a Mario Boni, poi ne parliamo con calma. Cosa ti è piaciuto, coach, in questo 2011, a parte il tuo rientro? Che cosa tieni, che cosa butti via? Ma ovviamente se dovessi buttare via una cosa sarebbe la lockout dell'NBA, perché ha causato diverse polemiche sul basket. Non mi piace quando il basket viene polemizzato, okay? E poi mi è piaciuto il fatto che sia risolto questo problema, che il basket aprirà il giorno di Natale, anche il mercato adesso è aperto, Chris Paul è stato ceduto ai Clippers con le storie lì, quindi quello lì. Per quanto riguarda l'Italia, non butterei via niente, però a parte il fatto che, e non lo dico come critica, mi dispiace che la nazionale non abbia avuto più successo negli europei, questo è stata veramente una cosa tragica per il movimento cestistico in Italia. La cosa che mi piace è che vedo i tre giocatori dell'NBA con attaccamento alla maglia, la serietà, Pianigiani è un grande allenatore, hanno fatto, anche se i risultati non parlano, hanno fatto un miglioramento dall'anno precedente, fase di qualificazione dove hanno perso con la Finlandia per poco, e quest'anno europeo dove ha perso con la Francia, magari d'argento per poco, quindi vedo già miglioramento. Spero che vengano fuori altri giovani, tipo Cantù che lancia Cincerini e altre cose, perché questa è la cosa importante. Poi per quanto riguarda il campionato, vedo che è un campionato più combattuto quest'anno. Siena ha dovuto sudare sangue, Milano deve sudare sangue, Cantù ha già perso 3 partite, quindi è un campionato molto più aperto, e quando lo spettacolo è anche nell'incertezza, abbiamo più di questo quest'anno. È il senso di tutto. Tu Mario? Sicuramente la cosa negativa è stata la nazionale degli ultimi europei, perché sebbene ci siano stati dei miglioramenti, e il fatto che 3 giocatori americani, tra virgolette, cioè Bellinelli, Vargnani e Gallinari, siano arrivati in Italia, non ha sortito gli effetti che tutti noi speravamo. Per quanto riguarda invece il campionato, devo dire che anch'io come coach dico che è una fortuna che si possa avere delle formazioni competitive, il ritorno di Cantù è importante, così come Milano con la firma di un campione d'Europa quale Sergio Scariolo, però vediamo che Siena, e la programmazione, la mentalità di Siena paga sempre per la capacità di saper scegliere i giocatori in funzione del proprio programma. Sì, e ci aggiungerei a Siena Cantù, perché dal Cantù, punto di vista filosofico, se me lo permetti, Cantù non è così distante da Siena, è almeno dal punto di vista filosofico. Nel senso di saper scegliere i giocatori per il proprio progetto, qui bisogna dire bravo, oltre a Corce Trinchieri, anche a Bruno Arrigoni, che è sempre bravo a scegliere i giocatori, e il ritorno di Basile è importante dopo gli anni a Barcellona, e soprattutto dopo l'ultimo anno che non ha giocato, e questo credo che sia una grande addizione per quello che è il movimento italiano. Coach, io ti saluto, non è che venerdì prossimo sarà già 2012, non è che ti trovo seduto su una panchina, no? Dubito tanto, comunque è quello che di quest'anno è stato, ripeto e lo dico sinceramente, anzi ho fatto per me, ho scritto le cose tipo un libro, tanto per dire, con fotografie del poster che ho fatto per lo spogliatoio, un libro per me, per Dan Peters, non è in vendita, non sarà mai pubblicato, una cosa così, con commento su ciascuno dei miei collaboratori, eccetera, per ricordare, perché tanto ero affezionato a tutti, a tutta l'esperienza che ho fatto, cioè proprio mi è dentro il cuore al 100%. Beh, però un giorno lo fai vedere a me, Mario Boni. No. Grande coach. Guarda, per voi due, guarda, con solo 20 euro a testa le faccio. Coach, grazie, buon anno, grazie. Well, happy New Year, guys, ok? Ciao, ciao. Happy New Year, coach. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo con Mario Boni. Palla spicchi. Chiare, ed hanno già fatto un elenco di tutti i cattivi da eliminare. Piace Mario? Bella. Buoni o cattivi? Un cult per, insomma, per l'ultima puntata di Pallaspicchi dell'anno. Buoni Basile, abbiamo detto prima. Ma possibile, tu Basile, eccetera, il eccetera, vecchio, eccetera. Il basket non è uno sport per, non è uno sport per signorine, ma non è anche uno sport per ragazzini, è così? I ragazzini hanno qualche difficoltà, anche perché spesso non hanno la capacità di soffrire, di essere così spudorati, io direi. A parte il fatto che Gentile poi è un 75, 75 non Gentile, sì. Basile è un 75, così come Marconato. Però delle nuove leve c'è meno faccia tosta. Si parlava per esempio di Aradori, no? Che è un giocatore che a me piace, intrigava molto di più quando era Biella. A Siena, sebbene stia facendo bene, scusate gioco di parole, però è il fatto che non secondo me meriterebbe molti più tiri e dovrebbe rendere essere più divertente il suo modo di giocare, parlando dei giovani. Invece si adatta a essere un semplice rincasso. Ma è possibile a Siena? No, forse proprio perché serve una personalità. Tu guarda il caso Rakočević. Cioè, a Siena ognuno deve fare quello che deve portare, i mattoni che deve portare. Deve essere assolutamente funzionale al gioco di squadra di Pianigiani, che è un allenatore straordinario. Però tu guarda il caso Igor Rakočević. Io ho detto, i grandi realizzatori, quali è lui, tre volte il miglior realizzatore dell'Eurolega, ha bisogno di stare in campo tanti minuti, com'è la sua storia. Se lo fai giocare 12, 15, 18 minuti non rende. Incredibilmente l'infortunio di Kaukenas ha permesso di farci rivedere il grande Igor Rakočević, che è un giocatore che ha bisogno di sbagliare. I grandi realizzatori hanno bisogno di sentire la partita, la palla, e di non avere il peso dell'errore. E anche appena... per questo però, Mario, che a Siena è così difficile trovare dei giocatori da contestualizzare. Cioè, è una squadra che funziona perfettamente con gli equilibri che ha. Però sì, bisogna essere anche bravi poi a scegliere i giocatori funzionali. Qui bisogna dire bravo a Minucci e a Pianigiani. Però anche qui la scelta di Rakočević, che così a colpo d'occhio non mi sembrava un giocatore importante, potesse essere importante di Siena, lo è diventato sfortunatamente per l'infortunio di Kaukenas. Però è un giocatore al quale, che riesce a trovare i suoi minuti, i suoi punti, perché hanno capito tutti che ha bisogno di minuti. Io insisto su Cantù. Cantù che è, insomma, insieme con Siena la miglior squadra italiana, sì, con meno qualità probabilmente, però sai cosa mi sorprende? Il fatto che riesca comunque a metabolizzare tutti i giocatori che prende, quindi a renderli, a farli rendere al meglio. Basile non, insomma, era, lo conoscevamo tutti, anche se era arrivato con molte perplessità fisiche. Ah, è sì, arrivato sì. Cinciarini, che è stata una bella grande scelta. Scommessa stagionale, e hai visto che campionato sta facendo. È stata una bella scelta. Io ricordo Cinciarini quando giocava a Pistoia in Serie A Dilettanti, ho giocato contro di lui un playoff per risalire. È stata una scelta azzeccata ed è stata ancora più brava Cantù a riconoscere un errore, o perlomeno il fatto che Basile, per poter rendere, non può giocare come playmaker, ma deve giocare come guardia pura. Ecco qui la scelta di Nicolas Gianella, scelta azzeccatissima, che ha permesso di spostare Basile in posizione di guardia e a giocare ancora, rendere ancora di più se fosse possibile. Il grande merito di Trinchieri qual è? Beh, io la capacità tattica è fondamentale nel saper scegliere, capire il momento della partita è fondamentale, e poi di saper far giocare i giocatori come vogliono giocare, no? E a valorizzare quei giocatori che al momento sembravano non adatti. Io ricordo un Mitzov alle prime uscite, dicevo, ma piace un sacco a Mitzov. Io all'inizio, adesso sì, ma all'inizio dicevo questo è un briao, detto in toscano, però diciamo questo non può giocare. Invece mi sbagliavo alla grande, perché è un giocatore eccellente, funzionale a quello che vuole Trinchieri, perché è anche capace di portare palla, è un giocatore molto alto, oltre 2 metri, di grande classe, molto giocatore di squadra, e quindi anche lì la capacità di saper aspettare un giocatore, non necessariamente se uno non fa tanti punti, io amo, potete immaginare, i Gunners, e invece Mitzov si è rivelato un giocatore straordinario. È un gran furbacchione, da bravo slavo. Gli slavi ne sanno sempre una in più degli altri, perché sono scafati, sono sanno subito adattarsi al campionato dove vanno a giocare. Sì, sì, non c'è dubbio. Senti, torniamo al discorso invece dei giovani che stentano. Ce ne sono anche di molto quotati, ad esempio Melli, che è sempre stato uno, bravo, che dice è lì sul punto di esplodere, è comunque un giocatore che sì, vale molto, ma non riesce a trovare collocazione. Solo questione di garra, di faccia tosta, di cazzimma, come dice Gentile, o c'è qualcos'altro? Beh, la cazzimma è fondamentale. Ricordo, in questo parlando del 2011 sempre, quando è stato dato in prestito a Pesaro, e mi aspettavo un fattore, no? Un Melli determinante, invece si è un po' perso. Quindi anche Melli è giovane, ma deve capire, deve cercare di esplodere, no? Perché altrimenti è una mina inesplosa e rischiamo di perdere un buon talento, perché ci vuole quella cattiveria, quella presunzione, quella voglia di dire va bene il gioco di squadra, però io adesso mi voglio divertire, voglio far vedere quello che valgo, quindi la palla, se devo pensare a un passaggio in più, non lo faccio perché voglio far canestro io. Ecco perché mi piace Alessandro Gentile. Ecco, Alessandro Gentile, quello sembra... che si prende il tiro da tre punti in contropiede, piede, il tiro ignorante tra virgolette viene usato per Basile. Beh, Gentile ce l'ha, perché l'ho visto prendere quei tiri. È così che mi piacciono i giocatori, quelli che poi non guardano le percentuali. Mi sono rotto un po' le palle sinceramente di quelli che guardano solo le percentuali al tiro. Se uno fa 4 su 4, 4 su 5 automaticamente non mi piace. Mi piacciono i giocatori che fanno 2 su 7, 3 su 8 e prendono 7 falli. Ricordiamoci che grandi giocatori NBA, Michael Jordan o Kobe Bryant, difficilmente superano il 40%. Senti, a proposito di Kobe Bryant, sentiamo una cosa. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. Egregio signor presidente, abbiamo un sogno, quello di vedere Kobe Bryant giocare nella nostra squadra, la Virtus Pallacanestro Bologna, città conosciuta in tutto il mondo come Basket City. Condividiamo con lei il desiderio che il lockout NBA finisca presto, ma nel frattempo ci conceda l'opportunità di veder giocare, almeno per una partita, il grande Kobe Bryant con la maglia bianconera, in modo tale da farlo diventare parte della nostra storia. Claudio Sabatini. Vedi, vedi, vedi, vedi, caro amico, cosa si deve inventare per poter... Caro Mario, questo 2011 è stato anche l'anno in cui... per qualche giorno abbiamo pensato di poter avere Kobe Bryant protagonista della nostra Lega. Ti dico subito che a me l'idea piaceva tantissimo quando si parlava di 10 partite, eccetera. Quando si è cominciato a parlare di amichevoli, di esibizioni, lasciamo stare. Però grazie a questa intuizione di Sabatini, alla sua faccia tosta, alla sua capacità di sognare, per qualche giorno abbiamo detto può arrivare davvero, qualche notte insonne aspettando il contratto dall'America e ci siamo quasi e non ci siamo, ti ricordi? Ma è stato un momento, questo lockout ha regalato giocatori all'Europa, ma anche il sogno, no? Il sogno di poter vedere, come dicevi, Kobe. Poi di fatto io credo che ci fosse l'impossibilità di vedere un giocatore per una partita. A me non piaceva questa idea, perché sembrava troppo da circo, no? Per un'esibizione. Io credo che un grande fermo sia stato anche l'intelligenza di Kobe per evitare di fare delle figuracce. Ti dico, ti spiego anche perché. Non è così semplice, se non sei in grande condizione, venire e fare benissimo come tutti sarebbero aspettati. Quindi a livello di marketing ha fatto bene a non venire, perché tutti hanno l'impressione, quando si viene a giocare in Europa, che un giocatore NBA possa fare la differenza. Abbiamo visto che non è così, e neanche per una superstar, a meno che non giochi con altre superstar, il rischio è molto forte, perché le regole sono diverse, perché il modo di giocare a basket è diverso, e quindi non è detto che uno della classe di Kobe Bryant poteva venire a fare 40 punti, probabilmente l'avrebbe fatto, però con percentuali io credo ridicole avrebbe fatto. E quindi come sarebbe stata la risposta della stampa, dei compagni e di tutto? Cioè dici rischiava tantissimo. Rischiava troppo rispetto a quello che era il paglio in campo. E poi non ti regala niente nessuno. Io guarda, sono rimasto impressionato ad Atene 2004, stiamo parlando ormai di molti anni fa, c'era una super squadra in cui c'era il giovane LeBron James, c'era Dwayne Wade, c'era Tim Duncan, c'era Allen Iverson, però questi si sono tolti le infradito, hanno fatto una settimana di allenamenti aperti a tutti, quindi una settimana di circo equestre, sono andati in campo e vedevi proprio la squadra in pre-season, come la classica amichevole di agosto, dopo una settimana di preparazione, solo che quelle erano le Olimpiadi e avevano tutti gli occhi del mondo addosso, quindi il rischio è veramente alto. Ma poi loro, gli americani, per loro natura arrivano un po' con la presunzione che gli europei, noi abbiamo, si va in giro con la sveglia al collo, no? E quindi arrivano senza preparare nulla, senza conoscere assolutamente i giocatori, confrontandosi invece col tatticismo che c'è in Europa, nonostante la loro classe, la loro capacità di atletica, rischiano di fare figuracce, come è successo. Poi magari incontrano gente con il tuo carattere e ti dice: ti faccio vedere io, vieni a vincere a casa mia. Esatto, no? Perché poi c'è anche quello, il bello, no? Di chi italiani, spagnoli, poi greci, chiunque, no? Quando sei in campo dici: ok, tu sei Kobe, sei okay, quello che sei, prendi 20 mia. Milioni di euro. Adesso però il rettangolo è quello, adesso vediamo cosa riesci a fare, perché non è che come in NBA batti l'uomo e fai la schiacciata a 360 gradi, qui batti l'uomo e c'hai 9 giocatori dentro l'area a farti fallo, a subire sfondamento, eccetera, eccetera. Che vogliono il sangue. Vogliono il sangue. Un giorno parlavo con mio amico Sasha Giorgio e mi dice: ok, va bene. Quel giorno che Gallinari strinse la mano a Michael Jordan, dice: sono emozionato. E lui dice: beh, però io gli avrei detto: sono emozionato di conoscerti, ma vieni a vincere al Pioneer. È vero. Senti Mario, a proposito di questi tre dell'NBA, di questi discorsi che stiamo facendo, insomma, nazionale, non trovi, poi ne parliamo con calma, adesso abbiamo, giusto per accennare il discorso, non trovi che alla fine non sia riuscita la chimica tra questi tre e tutti gli altri? Cioè questi tre sono stati... Gli si è data molta responsabilità, come se gli altri avessero detto: vabbè, voi siete le stelle, andate sui giornali, prendete i soldi, siete quelli dell'NBA, fate voi. Ho avuto sì, in parte questa sensazione. Ho avuto anche che ci fosse poco sangue all'interno della formazione, vuol dire non c'era poi tante persone a cui affidarsi al di là dei tre giocatori che tu hai accennato. Detto a questo, la delusione dei tre giocatori che dovevano essere il cardine per portarci a un risultato alle Olimpiadi, o perlomeno a un risultato importante. Il fatto di poter giocare nell'NBA non è che automaticamente diventi un super giocatore, perché nell'NBA, dicevamo prima, è un modo di giocare particolare. E quello che ho visto in questi europei azzurri è stata un po' una delusione, perché hanno trapportato in queste partite quella che è i difetti che hanno avuto nell'NBA, cioè diventare specialisti. Ma tu pensi, hai visto un Gallinari involuto sì. nella sua avventura milanese? Il Gallo, che è un giocatore straordinario, ha perso... Senti, quello Mario, che... facciamo così, visto che è un discorso interessante, facciamolo dopo questa pausa, così rispettiamo i tempi. A dopo. Palla spicchi. Ma chi l'avrebbe mai detto che erano così tanti cattivi da eliminare? Così adesso i buoni hanno fatto una guerra contro i cattivi, però hanno assicurato che è l'ultima guerra che si farà. Mario, sentiamo anche un po' di musica. L'ottimo Edoardo Bennato. Vabbè. A proposito, noi, mi ero dimenticato di dirlo, lo faccio subito, tanto vale ancora, regaliamo uno smart box ai nostri ascoltatori, al primo che manda un messaggio 349-238-6666 con scritto smart box, se lo porta a casa anche oggi, anche se non è più Natale. Detto questo, io volevo tornare con Mario Boni, prima di fargli raccontare una cosa su Kobe Bryant, volevo tornare su quel discorso di Gallinari involuto, l'abbiamo visto, insomma... Sai cosa c'è? A Milano non l'abbiamo trovato quel giocatore con quella freschezza, con quella inventiva, con quella creatività, con quella leggerezza. Abbiamo visto un giocatore più potente, forse. Sì, è un po' il problema di quando vanno in NBA, no? Prendono molta massa, peso, e diventano quello che poi la squadra NBA gli chiede, cioè diventare uno specialista. Il Gallo è un grande tiratore da tre, ha perso quello che è il tiro del middle range, cioè tra la linea dei tre punti e l'area colorata, e non ha messo su il gioco spallacanestro, che per uno della sua stazza sarebbe fondamentale. E non capisco per quale motivo gli americani, che hanno un materiale così eccellente, non ci lavorino sopra. E lui è diventato o un tiratore da tre punti oppure va fino al ferro. E questo è un peccato, perché poi l'ha portato in nazionale. Se gli chiedono questo, gli chiedono: tu o esci e tiri oppure esci, penetri, usi il fisico. Se te lo chiedono continuativamente e quindi quello diventa il tuo lavoro, poi ti concentri su quello, e quella è la parte del gioco che sviluppi, no? Come se te avessero chiesto: di passare la palla. Passare la palla li mandavi dove sei tu e non ci pensavi neanche. Però Carlo, è anche la voglia di perché un giocatore della sua stazza, con la sua intelligenza cestistica, un gioco spallacanestro potrebbe essere un fattore ancora più determinante. È un problema, e lì cambio discorso, l'altro giocatore Belinelli ha disimparato completamente a giocare pick and roll. Ha preso molto peso, ha perso il primo passo, la velocità e l'elasticità, e non riesce a giocare il pick and roll, e diventa un giocatore funzionale a un gioco dell'NBA dove prende la palla e tira da tre punti da 8 metri, ma meno funzionale quando si gioca in Europa e dove diventa una prima punta dove giocare il pick and roll. Torniamo al discorso Kobe Bryant. Il vecchio Kobe, il tuo Kobe Bryant, che tra l'altro io una volta ti ho chiamato perché appunto aveva raccontato la sua Italia, un'intervista a Vanity Fair. Che giocatore, Mario Boni. Esatto, è stata una grande soddisfazione. Tanto è vero che io... Tu e suo padre, figurati, derby Pistoia-Montecatini con il vecchio Jelly Bean. Mamma mia, è stato meraviglioso, perché poi io ho ringraziato lui indirettamente tramite la sorella. Io sono rimasto in contatto con la sorella di Kobe, tramite Facebook ho mandato un ringraziamento a Kobe. Ma il fatto di Kobe Bryant è che lui... E con Jelly Bean ti senti ancora? No, non ho più visto. Che personaggio. Anche perché io con la famiglia Bryant facevamo un camp nelle colline pistoiesi in quegli anni, fine anni 80, primi anni 90, e lì che ho conosciuto Kobe Bryant, e lui ricordo che si divertiva a giocare, a fare tiri sul campetto all'aperto, voleva che giocare sempre uno contro di me, chiaramente mi divertivo a stopparlo ogni volta, ed è rimasto. E poi c'era anche un torneo che si faceva a Montecatini Terme, dove il babbo Bryant, Jelly Bean, insieme a Kobe, giovanissimo, giocava, e quindi tutto il pubblico si divertiva a vedere un ragazzino di 12 anni con quelle capacità. Dopodiché nessuno si poteva aspettare che diventasse Kobe Bryant, e in quell'intervista lui disse, ha ricordato che il giocatore che più si ricordava in Italia era un certo Mario Boni. Ma anche perché il derby Pistoia Montecatini, esatto, da una poteva... parte suo papà, suo padre che giocatore era? Io me lo straordinario, ricordo. Straordinario. Grandissimo talento, un po' clownesco in alcuni casi. Ma tu pensa, giocatore da cinquantello ogni tanto. Sì, si divertiva, faceva divertire, era uno spettacolo, un 2,6 m, 2,7 m, che giocava in difesa numero 4, in attacco da numero 3 esterno, poteva passare la palla, tirare da 8 metri, buon rimbalzista, insomma un genio nel gioco della pallacanestro. Tanto è vero che ha fatto benissimo sia a Rieti, la prima esperienza, a Reggio Calabria, a Reggio Emilia e anche a Pistoia. Sì, un giocatore comunque di grandissimo talento. Grande talento. Io ricordo poi, perdonami, la coppia Dengay Bryant a Rieti, uno faceva 50 punti, l'altro prendeva 20 rimbalzi, era uno spettacolo. È stato anche l'anno, restiamo in America, dai, andiamo così a schema libero, è stato ovviamente anche l'anno dei campioni NBA che in fondo non ti aspetti. There it is, in the hands of Nowitzki. But he's got to be patient and just hold it. Haslam right up on him. He's going too early. Drives underneath, layup, he puts it in! Nowitzki makes it a three-point game! Timeout Miami! Sometimes even when you're wrong, you're right. Nowitzki wants the ball, Haslam again, excellent ball denial. Terry, a long three, bang! Jason Terry gives the Mavericks a seven-point lead with 33 seconds remaining. Vabbè, qualcuno se la ricorderà, altri meno. La sigla è quella di Dallas, noi ce la ricordiamo avendo una certa età, quella della famiglia Ewing, che non era Patrick Ewing, era J.R. e tutti quanti. Questo per dire che è stato l'anno di Dallas campione NBA, con Nowitzki, con Jason Kidd e con il basket. Ho goduto. Sì. Anch'io. Non ho sai goduto quanto. Anche perché io ho passato tutta la stagione a tifare dichiaratamente contro LeBron. No, io non ero contro, però una squadra un po', sì. Chi giocava, c'è cioè una squadra che ha vinto giocava per terra, l'altra giocava per aria, no? Si diceva, perché l'atleticità di LeBron, Dwayne, di Bosch, insomma, era incredibile, contro una squadra che aveva Dirk Nowitzki, il playmaker Jason Kidd che poco, poco atletica, che hanno la tua età più o meno, che hanno più o meno la mia età, ma non solo, ha vinto finalmente una squadra che non difende, con un giocatore che non difende. Dirk Nowitzki non difende non difende, però con quel modo di giocare, sai, un 2,13 marcando un numero 4 magari non così determinante, è riuscito a essere ugualmente devastante per quello che lui sa far meglio, cioè l'attacco, prendere i tiri con un uomo nei calzoncini, ed è stata una grande soddisfazione. Sì, anche tecnicamente, insomma, questa evoluzione di questo tiro da fenicottero con il ginocchio alzato, eccetera. Beh, la palla molto, lui è alto, braccia lunghe, palla sopra la testa, spesso dietro la testa, e diventa instoppabile, con una parabola molto alta, sa appoggiare la palla al tabellone, quindi insomma, giocatore di Dirk Nowitzki più determinante nell'NBA in questo momento. Sì, certamente, resta il fatto che anche dall'altra parte dell'oceano e Nowitzki e Jason Kidd che ha 90 anni, anche lì la rivincita dei nonnetti, o no, di, Mario? Sì, sì, è stata una rivincita di giocatori che davano ormai sul viale del tramonto, forse è così, però insomma le motivazioni, la capacità di giocare a pallacanestro sotto pressione ha fatto la differenza. Non possiamo dimenticarci la brutta prestazione di LeBron James nei playoff. Ma io ho goduto anche perché, no, al di là delle battute, insomma, ho goduto anche perché questi giocatori meravigliosi, mi riferisco soprattutto a Jason Kidd, alla fine stavano chiudendo la loro carriera con la nomea di perdentoni, lui come Nowitzki, tante volte vicini a loro e tante volte respinti al mittente, quindi è stato bello anche per questo, no? Perché io credo che alla fine per LeBron il tempo arriverà, credo, esatto, quindi... credo, perché noi adesso non è così. È ora che cominci a vincere. Deve vincere, noi abbiamo fatto il tifo per i vecchi leoni, questo è chiaro. Però insomma, Miami è una squadra forte, arriverà il tempo, anche se gli anni passano e se tutti noi volevamo paragonare LeBron a Michael Jordan. Comincia a essere un paragone un po' difficile. Anche lui sente la pressione. Io ho letto l'altro giorno quell'intervista, ho sentito quell'intervista in cui diceva, esatto, anch'io, in cui diceva tornassi indietro, cercavo un po' di medicare ferite con i tifosi di Cleveland e sono stato 2 settimane chiuso nella mia stanza, sì, per metabolizzare questa sconfitta. Ha fatto una cosa poco rispettosa verso i tifosi, quell'annuncio mediatico, tanto è vero, quell'intervista che ho letto anch'io. Io ho fatto bene, è stato un passo molto umano, molto toccante, no? Del ragazzo che si rende conto. Sarà vero fa il furbo? No, secondo me è vero, sì, secondo me è dispiaciuto perché insomma non conoscendo il personaggio non posso, però ecco, mi sembra che fosse genuino, che è stato l'evento mediatico, ha superato anche quello che era l'umanità del personaggio, è stato dato tutto troppo in pasto ai media. Sì, quindi non è materiale d'ufficio, quindi, stampa, cioè, ti sembra sincero in questo? Sì, mi sembra che sia stato travolto un po' anche degli eventi, dell'importanza del suo annuncio. Ma lui cosa manca per essere per poter guidare una squadra a un titolo? Perché alla fine adesso stiamo parlando, perché poi la pressione cresce continuamente, quest'anno ne avrà di più rispetto all'anno scorso, eccetera eccetera eccetera. Alla fine lui rischia di essere il più grande perdente della storia del basket tutta intera, con il talento. Lui è un dicembre dell'85 come nascita, è giovane tutto sommato. Deve saper gestire la pressione, perché capiterà anche quest'anno che arriverà, se non in finale vicinissimo oppure vicino a vincere il titolo. E quello che ha dimostrato è di non saper gestire la pressione di una serie così importante, e dovrà imparare a farlo, altrimenti sarà destinato alla sconfitta. Ma tecnicamente dice che ha lavorato tutta estate. Io credo... con Olajuwon per migliorare il gioco spalla canestro. Sì. Non ci credi? Dalla faccia non lo potete vedere, no. Mario Boni, ma non ci credi. Non lo so, perché lo vedo già abbastanza completo. Lui è un giocatore alto, grosso, veloce, riesce a, insomma, può giocare playmaker, può giocare in 4 ruoli dato la sua stazza. Mi sembra anche che non sia così malaccio spallacanestro, avrà messo magari qualche movimento tipo semiganci eccetera, però ecco, è un giocatore eccellente. Quello che su quale deve lavorare è la psiche, nel senso la capacità di reazione quando sei sotto pressione, ecco, quello è tutto. Dunque adesso ci fermiamo un attimo perché abbiamo, no, non ci fermiamo un attimo, 2 minuti, allora innestiamolo, se non mi date i tempi io faccio confusione. Volevo invece dopo, con calma, dopo il traffico, parlare anche di calcio con Mario Buono. Qui non si può. No, ma perché mi veniva prima un parlare che ti volevo fare. Remontada. Aspetta. Tanto hai visto. La remontada. Tanto hai visto il comandante Mu che... Ma io sono sempre tifoso del comandante Mu. No, capito, però gioca col Barcellona e lo rimettono a posto. Sì, polemiche. E poi è tutto nato da quel gol fortunoso del Barcellona con la deviazione, no? Ho capito, però arriva lì, e poi ti sei divertito fino adesso. E adesso ti facciamo vedere noi. Però sai, è sempre in vantaggio il Reale, quindi vediamo. Poi ci sarà la partita di ritorno, quella di Barcellona, lì ci sarà veramente da divertirsi. Sì, no, volevo arrivare al punto Inter, anche perché mi era venuto un parallelo che ho fatto molte volte, e voi lo sapete, tra basket e calcio, perché ti faccio subito la domanda e dopo ci pensi. Però Cantù a me ricorda tanto il Napoli, non so se Mazzarri, se Trinchieri mi ricorda Mazzarri, però quella intensità, quella capacità di superare i limiti, l'abbiamo visto in Eurolega, lo vediamo in campionato, la capacità di tirare fuori di più di quanto vali, quella anche intensità emotiva pazzesca, no? Ti chiede qualunque cosa, anche, tu il pubblico, giocatore, anche il pubblico rapportando, anche il, bravo, no? Anche il pubblico è un pubblico napoletano, nel senso che segue con grande affetto, no? Il pubblico canturino, questa meravigliosa avventura in Eurolega dove vanno a giocare a Desio ed è strapieno, in campionato è strapieno, pubblico gode come dei ricci, i giocatori danno più di quello che è normale aspettarsi. Quindi sì, tra Mazzarri e Trinchieri, Napoli e Cantù c'è un parallelismo, anche per la fatica che fanno a volte a riuscire a giocare in campionato col doppio impegno. No, ma non ce la puoi fare con quell'intensità emotiva, non ce la puoi fare. Ne parliamo dopo il traffico e parliamo anche un po' di Inter, perché so che avete voglia di sentire Mario. Ma la pazza Inter. A dopo. Palla spicchi. Beh, Mario Moli, questa te la dovevo. Siamo tornati a Vasco, non male. Siamo tornati lì, anche perché adesso c'è da parlare di Inter, serve una canzone carica, come ricarico tu. Gli ascoltatori non l'hanno sentito, ma nel periodo non collegato, cioè quello del traffico. Al di là di Cantù che assomiglia al Napoli, no, di questo parallelismo che è una suggestione, che insomma, sì, magari che continua a portarci con grande gioia in giro per l'Europa, l'Inter. Come la mettiamo con l'Inter? L'Inter è una malattia. L'Inter è una cosa che ti entra dentro, come tutti i tifosi, no? E l'Inter è ancora più problematica, perché non riesce a trovare la medicina, no, a questa malattia. Perché in questo punto... Però, di la verità, ti senti un po' più a casa con un Inter così rispetto a quando vincevi tutto? Non eri abituato? Siamo ritornati... Siete tornati a casa. Siamo ritornati a essere l'Inter, no? Che ci fa la pazza Inter, che ci fa soffrire. Però, voglio dire, capisco la società, capisco il momento, il grande ricambio, no? Perché gli anni passano per tutti, non passano solo per me e per te, passano anche per il centrocampo dell'Inter, non c'è niente da fare. Vedere i grandi campioni, Stankovic, Zanetti, Cambiasso, Thiago Motta, per quanto ci sia la voglia di continuare, è difficile per un re abdicare. Questo è il dato di fatto. Uno non si rende conto che hai anche un per un principe d'oro. Come Milito. E bravo, dimenticavo, e anche per il bravo subito il principe Milito, che non ne azzecca più una, è difficile capire che è il momento di dire, sai, forse vado in un campionato meno pretenzioso, forse è meglio che io giochi meno minuti. È molto difficile, perché non hai la percezione, è capitato anche a me, non hai quella percezione che arrivi un attimo dopo, che fai una corsa in meno, quindi dici forse il mio compagno non mi serve, forse la squadra non è in forma. Ecco, tendi a non vedere la reale problematica di te stesso. Quindi è un dato di fatto, il ricambio dell'Inter è necessario, è inevitabile, tanto è vero che quando i ragazzini dell'Inter, sebbene ancora debbano dimostrare quello che valgono, quando giocano danno maggior verve, no? Quello che è il centrocampo, il vero problema di centrocampo, perché Milito è una condizione io ho paura, però, caro Mario, non per girare col terreno una piaga, ma ho la sensazione che questi comunque non siano dei fuoriclasse. Come diceva l'altro giorno un ascoltatore, giustamente, non basta essere giovani per essere dei grandi giocatori. No, assolutamente. Però bisogna anche rendersi conto che l'Inter non, come la maggior parte delle squadre italiane, non può nulla di fronte ai grandi protagonisti del mercato. Le squadre inglesi, in particolare il City, il Chelsea, piuttosto che le due spagnole, il Madrid e il Barça, sappiamo che i giocatori che ha preso, Sanchez e Fabregas, erano interessanti sia per l'Inter che per il Milan. Sì, ma perché quando tu dici la cantera, però poi arriva al mercato, bam bam bam, tira fuori i soldi. La cantera, la cantera, però nei giocatori chiavi prendi Fabregas, che è un giocatore straordinario, che avrebbe fatto comodo a tutte le squadre, 40 milioni l'ha preso il Barça, così come Sanchez. Beh, allora sai, i discorsi poi li porta via al vento, quando il grano è quello che è. Ti devi accontentare di prendere Alvarez e sperare che lui possa diventare un giocatore determinante. Ma poi tu mi dici, poi quando poi prendi il gabbiano Jonathan, beh, allora lì c'è il grande punto interrogativo, no? Sì, anche Alvarez a me non sembra tutto sto fenomeno, mi sembra un giocatore così lento, così. Ma anche Pastore il primo anno, primi anni sembrava lento. Ci auguriamo tutti, soprattutto noi interisti, che possa diventare come Pastore, se non meglio, però e per adesso non lo è. Chi vorresti come allenatore del futuro? Io vorrei Spalletti. Vorresti a me piacerebbe Spalletti, anche perché qui si parla sempre di Guardiola, però io dico, da un po' a Messi, poi vediamo se il 4-3-3 Guardiola viene e dice ok, io vengo, mi prendi però 8 giocatori nuovi, e beh, allora sono capace anche Ranieri è un ottimo allenatore, dato di fatto che il Barça deve dire grazie alla propria cantera, al settore giovanile, la capacità di sapere individuare i giocatori, però non dimentichiamoci quello che fa Messi con quel piede sinistro, ricordiamoci anche la partita che ha fatto contro il Real, dribbla tutti e poi bam, mette la palla lì. Insomma, Messi è uno di quei giocatori che cambiano le sorti di una squadra, un po' come Ibrahimovic, se vuoi andare a vedere. Ibrahimovic ha la capacità di cambiare, lui non si inserisce in una squadra, lui cambia la squadra. Sì, sì. E diventa anche determinante, diventa anche condizionante, no? Anche tu sei stato condizionante molte volte per le tue squadre. Sì, e devi essere sempre pronto ad avere, finché sei determinante, tutti ti sopportano. Appena lo sei un po' meno, hai la valigia in mano. Senti Mario, torniamo al basket. Io voglio farvi sentire, anche perché è stata una delle perle, è stata una delle suggestioni dell'anno, il famoso time out di Pianigiani agli europei. Che sarà piaciuto tanto, io credo, a Mario Boni. Lo risentiamo insieme. Ma bisogna che si giochi con un po' di dignità, con un po' di anima, cazzo, nessuno fa un soldo, un fallo con la palla lì. Facciamo a cazzotti almeno. Dai. Ma che cazzo avete dentro? Pianigiani contro Israele agli europei. Sì, ricordo quel time out. Beh, Pianigiani, ragazzi, non dimentichiamoci la bravura e la persona giusta al posto giusto. Pianigiani, ci tengo a dirlo, è grande allenatore. Con Siena riesce a tirare fuori tutto dai propri giocatori, no? Riesce a motivarli, riesce a essere duro, essere intelligente nei momenti di difficoltà. Ma la nazionale è un'altra storia. Tanto che c'è stato, sai, tutto il ripensamento, ho pensato di dimettermi, cosa fa, c'è stata una verifica dei È stata dei una poteri. Verifica dovuta, dopo quello che è successo, le critiche inevitabili, perché ognuno poi fa il proprio lavoro, è stato intelligente Simone Pianigiani a dire, beh, se volete io me ne posso anche andare, voglio dire, posso, se le cose non vi vanno bene. Questo era un atto dovuto, è stato brava la federazione di Dino Meneghin a dire teniamo ancora Simone Pianigiani perché è la scelta migliore. Non so quali possono essere i correttivi, di fatto non possono bastare i 3 giocatori NBA, ci vuole che il contorno sia all'altezza. Si tratta di costruire una squadra, cioè non basta prendere altri giocatori di contorno a quelli dell'NBA, quasi quasi il discorso deve essere contrario, cioè sono i 3 dell'NBA che devono arrivare all'interno di una squadra che comunque ha già una sua anima. Pensavamo, io credo che nella testa di tutti ci fosse la convinzione che questi tre giocatori potessero cambiare l'Italia, invece abbiamo visto che devono essere inseriti in quello che è un modello nazionale dove altri possano essere decisivi. Io dico Alessandro Gentile, che sicuramente verrà convocato poi in nazionale, diventerà un pezzo forte. E però abbiamo un overbooking questi ruoli, Esatto, non abbiamo un grande un playmaker, centro, un centro. Il centro può essere Cinciarini, magari. Visto il playmaker Cinciarini, vediamo. Sì, sta facendo bene anche in Eurolega, quindi Cinciarini sarà sicuramente, lo ha già portato, quindi diventerà un pezzo fondamentale, trainante della nazionale, e poi il resto c'è un po' un vuoto, no? Perché la bocciatura di Poeta, la sua leggerezza, non so se ci sarà un ripensamento, e poi Vitali, che si pensava potesse essere determinante, invece abbiamo visto, stiamo vedendo che non è così, forse non perché è. Vitali ha fallito ovunque, Mario? Ma forse il fatto che debba giocare playmaker non è il suo vero ruolo, è un giocatore molto alto, molto lento di gambe, quindi quando si trova in difesa, al di là del talento, la percezione e la capacità di passare la palla che è divina, di Vitali, però non hai piedi per poter marcare chi che sia. Quindi lo fai giocare playmaker, te lo bucano ogni volta. Dalla piccola non è capace, non è così fisico per marcare una alla piccola, quindi dove fai giocare Vitali? Poi nel caso bisogna, sai, è stato fermo con broncopolonite tutto lo scorso anno ed è appena rientrato, quindi bisogna dargli tempo, può essere una risorsa, però dovrà essere lui a capire dentro di sé, no? Nella sua testa. Per me la mentalità, la testa, la psiche è determinante per fare un giocatore. Sì, dovrà capire qual è la sua strada nella vita cestistica. Anche perché il fallimento di Maestranzi è sotto gli occhi di tutti, quindi ecco, il momento delle giovani leve in Italia è un po' preoccupante. Sì, anche perché poi i centri non se ne vedono. E di questi tempi a livello europeo, ma l'Eurolega insegna, senza un grande centro non difficile fare della strada. Sì, qui parlano, non si vede centro, anche perché il reclutamento è assai difficile. Io ho una piccola società di mini basket, il reclutamento, Carlo, ti dico, è veramente molto difficile, vuoi per la concorrenza del calcio, del nuoto, della pallavolo. Molti ragazzi anche fisicamente ben dotati che potrebbero crescere, è difficile tenere nella pallacanestro, e con queste regole molti giovani vengono ammazzati, perché con le regole delle, adesso ci addentriamo in un discorso un po' complicato, però non vengono favoriti a continuare col basket. Si dà l'aspirina all'inizio per favorire per il gioco dei giovani, dopodiché vengono ammazzati perché le regole non permettono di andare avanti. Non è perché non si divertono, e anche perché ci sono allenatori che non li fanno divertire. Un'altra cosa nel mini basket, quando cominciano, visto che spesso fanno, non è divertente, è difficile. Poi questo gioco esasperato di squadra, gli schemi. Io ricordo quando ho iniziato, giocavo al campetto all'oratorio, la bellezza di mettersi alla prova nel fare il canestro, no? Senza necessariamente un passaggio in più o uno schema in più. I grandi realizzatori, basta vedere la tristezza del campionato italiano, difficilmente un giocatore va sopra i 20 punti di media. Come fa la gente a divertirsi? Lo trovo triste questo campionato, ma bruttissimo, perché io come faccio a fidelizzarmi, al di là di Cantù dove c'è una storia cestistica, la gente va a vedere, ma se io che sono uno che vorrebbe andare a vedere una partita di basket per divertirmi, dove pago il biglietto? A Biella, la grande sorpresa, perché ha dei giocatori divertenti, Pullen e Coleman, però a livello di giocatori italiani, ricordi quando c'ero io, insomma, c'era Esposito, c'era Carlton Myers, adesso la miseria, c'è una tristezza, non c'è più nessuno. Forse solo a Treviso. Mi auguro Alessandro Gentile, però non venga rovinato, no? che continui a giocare, a tirare, a far canestro. Beh, Mario, però questo campionato sarà tu hai ragione. Io trovo triste per quanto riguarda il gesto individuale. Io sono un cultore dell'individualità all'interno del gioco di squadra. Beh, questa individualità non la vedo. Anche della capacità della sfida, che è un po' quello che manca in giocatori un po' spersonalizzati. Proprio perché è sempre alla ricerca esasperata del gioco di squadra. Forse, ok, gli americani dicono bene, no? Perché la difesa, no, aiuta, ti fa vincere l'attacco, le partite, ma è l'attacco che fa vendere i biglietti. Esatto. Io dico anche l'attacco, un grande realizzatore, fa vendere i biglietti, perché se noi vogliamo prendere esempio l'NBA, noi parliamo sempre di grandi realizzatori, LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, non è che parliamo, ok, grandi personaggi che difendono, poteva essere Dennis Rodman, no? Però è un personaggio anche al di fuori di quello che era il campo da gioco, ma non è che parliamo tanto dei grandi difensori, parliamo di chi ci fa divertire. Tu vai a vedere la partita, quando Kobe fece più di 80 punti, cioè eravamo lì, che è stata una notizia roboante, cosa che nel campionato italiano ci stupiamo se un giocatore fa più di 20 punti. Sì, hai ragione. Un'ultima cosa, abbiamo ancora un minuto, Mario, primavera tutti in Turchia a vedere le Final Four di Eurolega. Ho notato in questa stagione che la Grecia è un po' ripiegata, la Turchia sta vivendo invece una grande primavera. Ha trovato, si vede che corrisponde anche quella che è l'economia del paese, e quindi le grandi squadre di Istanbul. Tra un po' andiamo tutti a lavorare in Ucraina, europei di calcio, vero, e poi gli europei di basket. E poi forse per altri motivi. E si pigliano tutto loro. Tutto loro. Però rimaniamo alla Turchia. Turchia è un movimento, tu in Grecia sei stato molti anni e sei ancora adesso un idolo. Sì, Grecia un po' in declino, Molto in declino la Grecia. E invece la Turchia con le grandi quattro squadre, no? Che c'ha Istanbul tra Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas e Anadolu, e quindi c'è un grande movimento, la grande città, sono carichi di non solo di soldi, ma anche di voglia di farlo con la pallacanestro, ecco, credo che sia un buon spot. Però la maglia di Deron Williams al Besiktas potevano evitare di ritirarla, e ha giocato sì, sì. numero 8, ritirato, ma anche film. Sì, esatto. Questo. I palazzetti italiani dovrebbero essere pieni delle tue magliette a quel punto. Esatto, tutti i campi. Beh, devo dire che mi hanno ritirato tre maglie, quindi sono contro Montecatini il 10, Teramo il 20 e a Piacenza il 15, perché io ho sempre cambiato maglia in base a dove io andavo a giocare, proprio per legare il numero alla città. Non hanno più magliette. Mario, grazie. A voi, grazie, ciao a tutti ragazzi, buon anno. Grazie davvero, buon anno a tutti. Io ringrazio anche Fabio Cantadore per il lavoro in regia e Franco Piantanida in redazione, naturalmente con Palla Spicchi. Ci sentiamo l'anno nuovo, cioè tra una settimana. Buon anno.